Che cosa sia sano criterio, educazione chiara e logica, si manifesta in modo speciale a questo gradino dello sviluppo. Basta riflettere che ora nasce ad esistenza cosciente il sé superiore che fino ad ora era assopito come in germe e inconsciamente nell'uomo. Non è una nascita nel mondo spirituale in senso figurato, ma in senso del tutto reale. Per poter essere vitale, il nuovo essere, il sé superiore, deve venire al mondo provvisto di tutti gli organi e le disposizioni necessarie. Come la natura deve provvedere perché un bambino venga al mondo con orecchi e occhi ben formati, così le leggi dell'autoevoluzione di un individuo devono aver cura che il suo sé superiore entri nell'esistenza con tutte le capacità necessarie. Le leggi che provvedono alla formazione degli organi superiori dello spirito stesso altro non sono che le sane leggi della ragione, della morale e del mondo fisico. Come il bambino matura nel grembo materno, così l'uomo spirituale nel sé fisico. La salute del bambino dipende dall'attività normale delle leggi della natura nel grembo materno. E in modo analogo, la salute dell'uomo spirituale dipende dalle leggi dell'intelligenza ordinaria e della ragione operante nella vita fisica. Non può generare un sé superiore sano chi non viva e non pensi in modo sano nel mondo fisico. Una vita conforme alla natura e alla ragione è la base di ogni vera evoluzione spirituale. Come il bambino nel grembo della madre già vive in conformità delle forze della natura che percepirà dopo la sua nascita con i suoi organi sensori, così il sé superiore dell'uomo vive già in conformità delle leggi del mondo spirituale durante l'esistenza fisica. Come il bambino, grazie ad un oscuro sentimento vitale, assimila le forze adeguate, così l'uomo assimila le forze del mondo spirituale prima che sia nato il suo sé superiore. Deve anzi fare così perché esso possa nascere come un essere appena sviluppato. Sarebbe un errore chi dicesse: non posso accogliere gli insegnamenti della scienza dello spirito se prima non vedo io stesso. Perché se egli non approfondisce la ricerca spirituale, non potrà certo arrivare alla vera conoscenza superiore. Si troverebbe allora nella medesima condizione di un bambino nel grembo materno che rifiutasse di adoperare le forze trasmessegli dalla madre perché vuole aspettare di potersele procacciare da sé. Come il germe del bambino sperimenta per virtù del suo sentimento vitale la giustezza di ciò che gli viene offerto, così l'uomo non ancora veggente sperimenta la verità degli insegnamenti della scienza dello spirito. Vi è in essa un intendimento che si basa sopra un sentimento di verità e un'intelligenza chiara, sana e universalmente critica e che permette di penetrare nei suoi insegnamenti anche quando ancora non si vedono le cose spirituali. Occorre prima imparare le conoscenze mistiche e con questo studio appunto prepararsi alla veggenza. Chi arrivasse alla veggenza prima di essersi preparato a quel modo somiglierebbe ad un bambino nato con occhi ed orecchi, ma senza cervello. L'intero mondo di colori e di suoni gli si sguadernerebbe dinanzi, ma egli non saprebbe che farne. Ciò dunque che prima riusciva evidente all'uomo per virtù del suo sentimento di verità, della sua intelligenza e della sua ragione, a questo gradino del discepolato diventa esperienza propria. Egli ora ha conoscenza diretta del proprio sé superiore ed impara a riconoscere che esso è in relazione con entità spirituali di genere superiore e che con loro forma un'unità. Vede perciò come il sé inferiore derivi da un mondo superiore e gli si palesa che la sua natura superiore sopravvive all'inferiore. Può ormai distinguere da sé ciò che lui è perituro da ciò che è permanente. Questo significa che egli impara per visione diretta la dottrina dell'incorporazione, ossia dell'incarnazione, del sé superiore in quello inferiore. Gli risulta ora evidente che è situato in un nesso spirituale superiore e che le sue qualità e i suoi destini sono determinati da quel nesso. Impara a conoscere la legge della sua vita, il karma. Vede che il suo sé inferiore, che costituisce ora la sua esistenza, è solo una delle figure che il suo essere superiore può assumere. Vede la possibilità di elaborare se stesso per mezzo del suo sé superiore, per diventare sempre più perfetto. È ormai in condizione di vedere anche la grande diversità che esiste fra gli uomini riguardo al loro grado di perfezione. È conscio che al di sopra di lui vi sono uomini che hanno già superato i gradini che egli ancora deve salire. Si avvede che i loro insegnamenti e le loro azioni provengono dai suggerimenti di un mondo superiore. Tutto ciò gli si rivela nella prima sua visione diretta del mondo superiore. Coloro che si chiamano i grandi iniziati dell'umanità cominceranno ormai ad assumere per lui un fatto reale. Questi sono i doni che il discepolo dell'occultismo deve a questo gradino della sua evoluzione. Cognizione esatta del sé superiore, della dottrina dell'incorporazione o incarnazione del sé superiore in uno inferiore, della legge in conformità della quale la vita è regolata nel mondo fisico secondo nessi spirituali, ossia la legge del karma, e infine dell'esistenza dei grandi iniziati. Di un discepolo che ha raggiunto questo gradino, si dice perciò che non conosce più il dubbio, mentre prima poteva avere una base di fede su ragioni logiche e pensieri sani, al posto di quella fede subentra ora la piena conoscenza e la visione che niente potrà scuotere. Le religioni, nelle loro cerimonie, nei loro sacramenti e riti, hanno dato in modo esteriormente visibile le immagini di processi e di essere spirituali superiori. Soltanto chi non è ancora penetrato nelle profondità delle grandi religioni può disconoscerle. Chi però penetra con lo sguardo nella realtà spirituale stessa comprenderà anche il profondo significato di quelle pratiche esteriormente visibili. Allora il rito religioso diventa per lui un'immagine della propria comunicazione col mondo spirituale superiore. Così si vede come il discepolo dell'occultismo, raggiungendo questo gradino, sia diventato veramente un uomo nuovo. Può ormai maturarsi gradatamente per mezzo delle correnti del suo corpo eterico, fino a dirigere il vero elemento vitale superiore, conseguendo in tal modo un'elevata libertà rispetto al suo corpo fisico.